ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Mai, non ti vorrei veder cambiare mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli. Ed è per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Per guardare ancora fuori, per non sentirci soli, per non sentirci soli.